Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di pubblicità progresso. Ne ripercorriamo la storia, l'impatto sulla società e sulla comunicazione commerciale. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo invece di uno dei prodotti emergenti del settore alimentare e per il focus sui trend di kids style, quando i più piccoli fanno tendenza. Come sempre però tutto questo dopo le notizie e curiosità di questa settimana. Più Facebook, meno libri. È una delle tendenze fotografate del rapporto 2009 del Censis, secondo cui oltre un navigatore su quattro dedica meno tempo ad altre attività per passarlo sul social network. Oltre al libro, a rimetterci sono la navigazione su altri siti, la TV, lo studio, le telefonate agli amici e il cinema. È di nuovo italiana la penna Montegrappa. Amata da scrittori, artisti, principi e statisti, nel 2000 la storica stilografica Made in Italy era finita in mani straniere, nella stessa orbita della rivale Montblanc. La zeppa ha rubato la scena al tacco a spillo, diventando protagonista di una mostra al prestigioso MoMA di New York. La rassegna, dedicata alla storia segreta della scarpa rialzata, è organizzata dall'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani, in collaborazione con l'Istituto per il Commercio Estero. Saranno circa 8 milioni i cotechini e gli zamponi consumati durante le feste, il 95% della produzione nazionale. È quanto stima la Coldiretti, sottolineando che con un aumento del 3% sono le spese per gli acquisti alimentari a far registrare la maggiore crescita del periodo natalizio. Capi e accessori contemporanei, destinati a diventare un classico nel futuro. Si chiama il Vintage di domani, l'iniziativa di Angelo, marchio cult del settore. Chi si stanca dell'ultima it bag può lasciarla in conto vendita nell'apposito corner del negozio di Lugo di Romagna, scambiandola con il capo o l'accessorio lasciato da un'altra cliente. La Piazza del Campo di Siena diventa la sala da ballo più grande del mondo. La notte del 31 dicembre, infatti, il comune metterà in scena Dal sogno gotico al rock and roll, spettacolo multimediale inedito, fatto di proiezioni dinamiche, giochi di luce e musica. La borsa della spesa. Questo scambio potrebbe essere uno di quei film che ti fanno pensare. Papà, vuoi sapere la storia che ho raccontato? Le parole degli altri possono arricchirci. Ascoltiamole. AIDS, se lo conosci lo eviti. Se lo conosci non ti uccide. Ehi, tu non sei grande. Tu sei solo. Rispetta chi non la pensa come te. In casa vostra non vi comportereste mai così, vero? E allora perché quando andate nei prati o nei boschi vi comportate così? Ma i boschi e i prati sono casa vostra, lo capite o no? Il verde è tuo, difendilo. Le avrete sicuramente riconosciute, sono solo alcune delle più famose campagne di pubblicità progresso. Immagini e slogan che da quasi 40 anni accompagnano i cittadini italiani, vero e proprio specchio dei cambiamenti della società attraverso le sue paure, le sue aspirazioni, i suoi ideali. Nata nel 1971 come associazione no profit, poi diventata fondazione, pubblicità progresso è diventata sinonimo di campagna sociale. Il suo scopo, leggiamo dalla presentazione istituzionale, è di contribuire alla soluzione di problemi morali, civili ed educativi della comunità, ponendo la comunicazione al servizio della collettività. Molte campagne hanno fatto epoca, ci dice il presidente Alberto Contri. La prima addirittura fu una campagna per una raccolta di sangue, perché si era creato un mercato nero di sangue negli ospedali ed erano negli anni 70, quindi si veniva fuori da Carosello con quella pubblicità tutta edulcorata. Comparve un medico chirurgo con un'aria molto truce che colpevolizzava il pubblico dicendo: tutto questo avviene perché voi. E subito in un anno ci fu un tale successo che tra l'altro le associazioni che si erano riunite per cominciare a fare questa prima campagna si riunirono poi in Pubblicità Progresso. E poi via via

diventa sempre più trasversale. Dal successo dei film d'animazione, che dicono le tabelle degli incassi salvano l'industria del cinema, ai social games, un nome su tutti, Farmville, fino ai videogiochi educativi o usati come strumento di marketing, per non parlare del fenomeno Kidult per eccellenza, Hello Kitty. Patrizia. Sì, allora partiamo da questo termine e vediamo che cosa significa. Kidult sta per kid più adult, è un neologismo inglese che definisce appunto la coesistenza nelle persone, negli adulti, del lato kid, bambino, e appunto di quello adulto. È a questi baby adulti, chiamiamoli così, che come dicevi si rivolge un enorme mercato di prodotti e servizi che in alcuni casi parla sia ai bambini che ai più cresciuti, oppure in altri casi solo agli adulti, ma con cose codici, estetiche, linguaggi derivati naturalmente dal mondo dell'infanzia. Pensiamo agli accessori bagno, cucina, casa di Alessi, per citare un marchio notissimo a tutti. Questi oggetti quotidiani con una fortissima carica affettiva derivata proprio dai colori, dalle forme tondeggianti, morbide, e da questa funzionalità che diventa anche ludica. In altri casi il design ci offre degli oggetti addirittura divertenti con cui fare delle cose giocose e tornare un po' bambini. È il caso di Bubble Scrubber, la spazzola col manico per lavare i piatti creata da Hasbro. Possiamo proprio fare delle bolle di sapone, passione intramontata dell'infanzia di chiunque. C'è un buco, si soffia, e quindi questa noiosa corvée del lavaggio cambia tono completamente. Tu citavi Hello Kitty, la gattina rosa più famosa del mondo. Questo è un esempio molto interessante di un marchio affermato da molti anni ormai tra bambini e adolescenti, e che sempre più conquista fasce d'età più avanzate, donne giovani, adulte, offrendo prodotti che stanno tra l'accessorio e il gioco, di difficile definizione, e che si vedono indossate appunto indistintamente da bimbe, ragazzine, quindi mamme e figlie. Sono moltissimi nel mondo del design e degli accessori i marchi che usano proprio questo estetica, che si chiama del carino, del cute, che è una vera e propria categoria espressiva molto influente, molto stuzzicante sugli adulti. Un brand come Braccialini, che fa accessori, borse, invece pesca nell'immaginario infantile, ne riproduce fedelissimamente le icone, e lo fa però esclusivamente per un target adulto, anche per il posizionamento di prezzo e materiali pregiati, molto preziosi, utilizzati. Le borse dell'ultima collezione, in linea con la tenera, tenerissima stravaganza di questo marchio, sono a forma di pupazzo di neve, quindi una borsa bianca col berretto, i manici rossi, l'occhio, naso, guanti e sciarpa applicati, oppure c'è un bauletto ispirato alla casetta di marzapane della strega, credo, di Hansel e Gretel, con i dolcetti applicati, caramelle, le calecca, le ante delle finestre a biscotto, eccetera. Queste borse coloratissime, allegre, per signore, un po' bambine, evidentemente, che lo vogliono far sapere con molta ironia con questi accessori. Arriviamo alla bambola, altra icona dell'immaginario kids. C'è una bambola manga, si chiama Blight, famosissima, piuttosto strana. È una bambola molto intrigante, altrettanto inquietante, con capelli lunghissimi fino alle caviglie. Da qualche anno è l'icona giocattolo del mondo moda, diventa l'ospite d'onore di eventi di grande risonanza internazionale. Ha sfilato in questi anni con gli abiti degli stilisti più famosi, e adesso è appena stata scelta dallo stilista Alexander McQueen come modella testimonial della sua campagna multimediale, stampa, affissioni web, della collezione che ha realizzato con il department store americano Target. Nelle informazioni d'acquisto di alcune serie limitate di modelli di Blight si legge sul sito: una sola bambola per cliente, non per bambini al di sotto dei 7 anni. E c'è anche chi ha pensato di fare una mappa del mondo attraverso i sogni dei bambini, un progetto multimediale che mette online disegni e racconti dei bambini di tutto il mondo. Si chiama Kids Dream, è un progetto in collaborazione con il Programma Alimentare Mondiale e ha come scopo dichiarato quello di riconoscere l'infanzia come risorsa inestimabile per la crescita del pensiero e della cultura di tutti. Era un pianeta senza nome, era azzurro ma era tanto prosciugato, non aveva niente. Era vuoto. Chiama gente, signor Walker, ne pugagno, agua signor fami, manchese madre signor cor, ma gente. C'erano tanti bambini, avevano gli occhi tirati in su e la bocca in giù. e l'altra parte c'era un albero bianco che si chiamava Furfante Bianco. Il mio amico stava con la Porsche e io stavo con la Ferrari. Andavamo velocissimo, ci sentivamo, i capelli ci andavano alzati. Pues yo invité a mi abuela a comer porque estaba un poco triste a un restaurante de aire libre. Entonces el restaurante estaba al borde de un precipicio. Una fiaba la sanno un po' tutti a memoria, cioè la conoscono tutti. Invece un sogno lo conosci solo te, è particolare, è diverso dagli altri, insomma. E in Emilia-Romagna, alle porte di Correggio, un intero quartiere è stato costruito sulla base delle richieste e dei progetti dei bambini. A Coriandoline, questo è il nome dell'area residenziale, ci sono case una diversa dall'altra, ognuna ha un nome, non solo un numero civico, sono colorate, intime, con gli scivoli pensate ad ogni rampa di scale. Un esperimento di progettazione partecipata, coordinato da maestre e pedagogiste, diventato realtà proprio quest'anno. Patrizia, che cosa ne pensi? Ma non conosco nei dettagli il progetto, ma mi colpisce molto. Potenzialmente, oltre all'architettura, si potrebbe fare con qualsiasi prodotto o ambito. È un modo di valorizzare la saggezza dei bambini, che ripartono non a caso sempre dai basic, dei loro e anche dei nostri bisogni, perché no? Un modo di non trascurare l'essenziale, non perdere la dimensione ludica, giocosa, è il tema di cui trattiamo oggi, che non a caso fa stare bene, fa apprendere e fa vivere meglio. Più o meno è a partire da qui che una casa come Nintendo ha creato videogiochi per adulti e anziani, dando vita a quel fenomeno interessantissimo di slittamento dell'uso del gioco da puro divertimento a gioco apprendimento, gioco allenamento cerebrale, che ha reso appunto desiderabile la console DS anche e soprattutto da adulti e anziani, persone della terza età. Questa console, grazie a un gioco, ma molti altri, cito solo Brain Training, è diventata popolarissima. I test sono creati in collaborazione con un neuroscienziato che compare in versione fumetto sullo schermo, ci comunica quanti anni ha effettivamente il nostro cervello. Dunque, in tema di divertimento, proprio nel senso etimologico del termine, cioè di un luogo, di uno spazio che fa divergere, pensato per adulti che vanno riportati negli universi infantili, vediamo alcuni esempi interessanti dal mondo del retailing, che ha fatto di molta estetica infantile dei format proprio per negozi. Siamo in Giappone, Kiddyland Tokyo, quartiere Omotesando, che è il cuore della moda e del design, è un vero paese dei balocchi del merchandising per bambini, teenager e soprattutto adulti collezionisti, tanto da essere diventato una meta del turismo asiatico legato allo shopping. E poi c'è Candy Restaurant, in cui si mangiano solo caramelle, sono preparati da uno chef che le crea e allestisce piatti e tavoli, un ristorante frequentato soprattutto da adulti senza bambini. Cosa c'è di nuovo a Milano su Kids Style e dintorni? Questo è il momento delle Urban Watcher di Memi. Elena Marinoni, bentornata. Buongiorno, buongiorno. Torniamo a parlare del fenomeno designer toy, altrimenti noti come vinyl o urban toys, scritto con la Z finale. I vinyl toys altro non sono che giocattoli creati da artisti e designer e rivolti però esplicitamente ad un target di adulti che li acquistano non per giocarci ma per possederli. E se New York e Los Angeles o Londra ospitano già da tempo luoghi che sono punti di riferimento per il popolo dei monomaniaci di vinyl toys, quali Kid Robot, Giant Robot o Forbidden Planet, finalmente anche Milano può vantare il suo. In via Volta ha infatti aperto recentemente il nuovo negozio di Atom Plastic. Qui è possibile trovare un'attenta aggiornata selezione di toys di importazione. Nel negozio campeggia come monito eloquente una scritta a chiare lettere: Toys are not for kids. Grazie Elena. Patrizia, in conclusione, quello che sorprende in tutti gli esempi che abbiamo fatto detto, è come siano tutti fortemente innovativi. Proprio dall'innovazione la lezione da trarre potrebbe essere ricollocare gli spazi di gioco, la dimensione ludica dentro le nostre relazioni, dentro le strutture influenti della nostra vita adulta, quindi dall'apprendimento al consumo, dal lavoro ai sentimenti, recuperare un po' di quel molto che crescendo perdiamo, e quindi dai bambini possiamo imparare e ricostruire una visione più poetica anche per il futuro. Essere avere @radio24.it, mandateci le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di ritrovarci come sempre ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato successivo alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.